Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ben approdati qui a Effetto Notte. Vi racconterò come sempre all'inizio un po' una sintesi della giornata e poi approfondiremo con i vari ospiti. Ma diamoci subito dello sprint, perché Renzi ha detto d'accordo il piano di governo, il programma di governo per il 2014, ma il governo si dia uno sprint. Sapete che è un tipo vivace. Intanto vedo un'agenzia di questi istanti che riporta una dichiarazione di Enrico Letta che dice: mi fido di Renzi, dice che lavoreremo insieme, quindi se lo dice lui. E tra l'altro Saccomanni annuncia segni di ripresa, quindi insomma un po' di cose positive. Possiamo iniziare con questo oggi, anche se c'è una nave che dalla Sicilia starebbe andando verso il Salento carica di amianto, ma il ministro dell'ambiente, questo è un allarme che girava oggi, ha detto ma per il momento non è previsto nessun attracco, non ho notizie di questo attracco. Fra le altre cose, considerando, insomma, abbiamo iniziato con delle notizie diciamo così un po' sprintose, un po' positive, c'è da dire che se il sogno cade lì proprio in America, vuol dire che c'è una disillusione generale, perché muore il sogno americano. Chi nasce povero resta povero, lo sapete, il sogno americano, no? Che uno può nascere povero ma può immaginare di poter fare poi nella vita qualsiasi percorso e di arrivare al successo. Non esiste più il sogno americano, alla faccia quindi del mito del paese delle frontiere impossibili da mezzo secolo, in cui la mobilità sociale dei cittadini americani non esiste proprio più, è rimasta al chiodo. E a denunciarlo è uno studio di un team di economisti della prestigiosa Università di Harvard, mica niente, dell'Università di California e del Ministero del Tesoro americano. Quindi, finito il sogno americano, noi però concentriamoci sulle piccole cose o grandi cose di oggi. A partire dalla crisi, il ministro Saccomanni al Forum Economico Mondiale di Davos dice ci sono forti segnali di un ritorno alla crescita. Poste domani in Consiglio dei Ministri la privatizzazione parziale sul mercato, il 40%. Legge elettorale Grillo contro tutti, contesta l'Italicum e la minoranza del PD propone delle modifiche. Nuove accuse per Berlusconi, per i magistrati di Milano ha corrotto i testimoni del processo Ruby. Musica, è morto a Roma, 87 anni, Rizzo Ortolani, grande firma della musica da film. E per il calcio, Tohir contro la Juve, nessuno dice può criticare pubblicamente le dinamiche interne dell'Inter. Quindi per questa volta dall'economia col ministro Fabrizio Saccomanni che a Davos, vi dicevo, al Forum Economico Mondiale ha detto abbiamo forti indicazioni che nel quarto trimestre l'economia italiana abbia ripreso a crescere, ha spiegato so che le stime di Unione Europea e Banca Italia sono inferiori, ma è così perché i loro modelli non tengono conto di alcuni fattori come il rimborso di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, così ha detto Saccomanni. E sempre il ministro ha annunciato che domani il Consiglio dei Ministri si occuperà di privatizzazione. Si comincia con il 40% di Poste. Quasi braccato al termine di una colazione a porte chiuse, Fabrizio Saccomanni si lascia andare a qualche dichiarazione. Al Consiglio dei Ministri ci sarà il decreto privatizzazioni, si comincia con il 40% di Poste, poi vediamo. Ne faremo altre, aggiunge, quando si faranno passi concreti su questa strada. L'annuncio del titolare di Via 20 Settembre fa seguito all'intenzione palesata dal governo a fine novembre, raccogliere 12 miliardi mettendo sul mercato quote di società pubbliche o partecipate, tra cui SACE, grandi stazioni, ENAV, STM, Fincantieri e un 3% di ENI e appunto le Poste, aggiunte alla lista solo in seguito. In merito alla situazione economica del paese, in particolare sul rischio deflazione e cioè contrazione dei consumi e discesa dei prezzi, di cui tanto si parla in Europa, Saccomanni ha escluso che sia un pericolo che l'Italia corre. La ripresa da noi è in atto, aggiunto il ministro, ma occorrerà del tempo prima che la disoccupazione cali, confermando così previsioni già note. Le elezioni anticipate potrebbero risolvere? Non credo, ha detto Saccomanni. Sarà necessario tornare alle elezioni, ma solo dopo il semestre europeo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il fisco parte l'operazione sanatoria per le cartelle Equitalia, che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche i tributi come il bollo dell'auto e le multe per la violazione del codice della strada. Entro il 28 febbraio i contribuenti quindi hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione senza interessi le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 dicembre 2013 a Equitalia per la riscossione, esclusi i debiti IMS e INAIL. Quanto invece l'evasione fiscale ha superato i 50 miliardi in Italia, oltre 8.000 gli evasori totali scoperti, dati emersi dal bilancio dell'attività compiuta nel 2013 dalla Guardia di Finanza. Sono 51,9 miliardi sottratti al fisco in Italia, redditi e ricavi non dichiarati e costi non deducibili scoperti dalla Guardia di Finanza nel 2013. 8.315 gli evasori totali completamente sconosciuti al fisco da soli hanno nascosto redditi per oltre 16 miliardi. Uno scontrino su tre, rivelano i 400.000 controlli eseguiti dalle fiamme gialle, è irregolare o addirittura non emesso. L'IVA evasa ammonta a quasi 5 miliardi, due dei quali sono riconducibili a frodi carosello, quelle basate cioè su false transazioni commerciali con l'estero. Per frodi e reati fiscali la Guardia di Finanza ha denunciato nel 2013 più di 12.000 persone, 202 quelle arrestate, mentre sono state avviate procedure di sequestro per 4,6 miliardi di euro. Oltre 27.000 i lavoratori in nero e irregolari scoperti e tra contanti e titoli sono stati intercettati ai valichi di frontiera 298 milioni, il 140% in più rispetto al 2012. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo a questo punto alla politica. Beppe Grillo torna ad attaccare la bozza di riforma elettorale. Attacca la nuova legge elettorale, il capo dello Stato, il premier, il segretario del PD. Grillo a tutto campo in una conferenza stampa Fiume alla sala stampa estera preclusa ai giornalisti italiani. Il tema doveva essere l'Europa, di fatto diventa la nuova legge elettorale. Con l'Italicum saremo tagliati fuori perché il pericolo siamo noi, ha tuonato Grillo tacciando di mutismo Letta e Napolitano. Ma le parole più dure le ha riservate a Renzi, lebetino che fa accordi con il pregiudicato Berlusconi. Ha fatto un patto con un condannato, di nascosto, messo lì dentro in una sede privata, il Berlusconi che esce scortato dalla polizia con una condanna passata in giudicato, adesso deve o fare gli arresti domiciliari o lavori. Ma dove è un paese così, scortato dalla polizia? Nessun dialogo dunque con i partiti e la guerra, o vinciamo noi o ce ne andiamo, ribadisce chiaro e tondo il leader del movimento uscendo da Palazzo Madama dove incontra i senatori grillini. Non c'è via di mezzo, è una guerra, siamo arrivati al dunque. Duro a fondo anche contro il Presidente della Repubblica, per il quale Grillo ripropone la tesi del colpettino di Stato, quello che avrebbe a suo dire ordito Napolitano quando si è riunito con due persone una sera e fatto le larghe intese per bloccare il Movimento 5 Stelle. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa dunque è l'accusa di Grillo, ma anche la minoranza del PD è in rivolta. Testi blindati e Parlamento non sono mai andati molto d'accordo, così anche per la legge elettorale frutto dell'intesa tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. La minoranza PD è in rivolta, l'area Cuperlo insiste per modificare la riforma. No a liste bloccate, premio di maggioranza con soglia più alta come vuole anche Scelta Civica, sbarramento più basso dell'8% per le forze non in coalizione. Anche il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto, apre modifiche e nega che il testo sia contro il Movimento 5 Stelle, così Sisto ad effetto giorno. Di blindato non c'è mai niente in Parlamento, è un testo base che racchiude un progetto di massima accurato, non è assolutamente una legge contro i 5 Stelle, anzi. Sono convinto che il risultato sarà poi quello di un buon provvedimento, una buona legge. E anche il nuovo centrodestra promette battaglia sulle preferenze, malgrado il sì all'accordo con i Democratici e Forza Italia. Sullo sfondo anche un possibile avvicendamento a Palazzo Chigi tra Enrico Letta e Matteo Renzi, bocciato però da Gianni Cuperlo. Gli sconsiglio di diventare premier senza voto. Intanto la legge elettorale slitta di pochi giorni, sarà in aula a Montecitorio il 29. Si vota tra il 30 e il 31. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo ora alla cronaca giudiziaria. È stata avviata dalla Procura di Milano una nuova indagine a carico di Silvio Berlusconi, che risulta quindi indagato insieme ai suoi difensori e altre 42 persone. Berlusconi sarebbe accusato di corruzione in atti giudiziari. Berlusconi Silvio. L'elenco dei nomi fu snocciolato dai giudici dei processi Ruby 1 e 2. C'è innanzitutto Silvio Berlusconi e ci sono i suoi avvocati Ghedini e Longo. C'è la stessa Ruby, molte Olgettine come altri abitué di Arcore, da Carlo Rossella a Valentino Valentini, ma ci sono pure funzionari della Questura di Milano. Sono 45 gli indagati del terzo fascicolo sul caso Ruby, l'indagine cioè sulla presunta corruzione dei testimoni ascoltati sia nel processo che ha portato alla condanna a 7 anni del dell'ex premier sia in quello a Fede, Mora e Minetti. Le due corti infatti hanno rinviato gli atti in procure, quindi l'iscrizione ora è un atto dovuto, specifica il procuratore Bruti Liberati, spiegando che dell'inchiesta non si occuperà Ilda Boccassini perché molto impegnata, ma Pietro Forno insieme a Luca Gaglio. I PM dovranno scoprire se per interessi abbiano effettivamente mentito in aula quegli ospiti che hanno sempre ridotto a semplici cene le notti a Villa San Martino, a cominciare dalle Olgettine che dopo l'inizio del caso Ruby furono convocate e che hanno ricevuto 2000 euro al mese dal Cavaliere, o se hanno mentito quei funzionari della questura come Giorgia Iafrate che la notte del fermo di Ruby assecondarono le richieste telefoniche dell'allora premier, e questa per Berlusconi è l'ultima pesante tegola giudiziaria. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. La cronaca con l'incidente avvenuto a metà giornata in provincia di Viterbo. Un elicottero dell'esercito è precipitato, due sono le vittime, fra cui il generale Caligaris. Le pale hanno colpito i tralicci dell'alta tensione e li hanno tranciati. L'elicottero ha quindi perso quota ed è precipitato. È questa la causa quasi certa dell'incidente nel quale sono morti il tenente allievo pilota Paolo Tozzi e il generale Gian Giacomo Caligaris, 57 anni, capo dell'aviazione dell'esercito. Il mezzo, una B-206, era scomparso dai radar intorno all'una nella zona di Monte Marta, nel Viterbese. Il relitto è stato trovato a ridosso di Monte Romano, area di solito impegnata dall'aviazione dell'esercito per l'addestramento dei piloti. La zona è accidentata e si può raggiungere soltanto a piedi. Il generale Gian Giacomo Caligaris aveva assunto il comando dell'aviazione dell'esercito nel marzo dell'anno scorso. Nella sua carriera aveva svolto ruoli di grande prestigio e responsabilità, dall'operazione Joint Guardian in Kosovo all'antica Babilonia in Iraq, dove è stato vicecomandante dell'Italian Joint Task Force Iraq. È stato coordinatore delle operazioni ISAF in Afghanistan, in Chad e ad Haiti per il terremoto. In Italia aveva partecipato all'operazione Vespri Siciliani e alle campagne militari Riace, Calabria e Salento. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proseguiamo con la cronaca. Un commerciante di 50 anni che il 25 novembre del 2012 sparò un ladro uccidendolo nel suo negozio a Caravaggio in provincia di Bergamo è stato assolto perché non c'è la prova della sua colpa. Il processo si è tenuto al Tribunale di Bergamo. E poi il cadavere di una donna è stato trovato nel congelatore della casa dove viveva con la figlia. La scoperta è stata fatta oggi a Borgomanero in provincia di Novara dai vigili urbani intervenuti nell'appartamento per soccorrere la figlia che si era sentita male. I carabinieri ipotizzano che la donna avesse nascosto il cadavere della madre per continuare a riscuoterne la pensione. E una notizia di pochi istanti fa: il cadavere di Provvidenza Grassi, 27 anni, scomparsa a Messina lo scorso luglio, è stato trovato nella sua auto, una Fiat 600 bianca, sotto il viadotto autostradale di Bordonaro all'uscita dello svincolo di Gazzi nella città dello Stretto. Non si sa se sia stata vittima di un incidente o se qualcuno abbia spinto l'auto dal viadotto. E a Bonporto, uno dei comuni del modenese più colpiti dall'alluvione di domenica per la rottura di un argine del fiume Secchia, si è deciso di tagliare l'argine del naviglio che costeggia il paese per far calare il livello dell'acqua e permettere all'idrovore della Protezione Civile di liberare le strade. All'estero adesso, il Parlamento ucraino si riunirà in seduta straordinaria martedì 28 per discutere le possibili dimissioni del governo. Si tratta quindi di una prima vittoria, questa, dell'opposizione che contesta il presidente che da due mesi protesta nel centro della capitale di Kiev per la mancata adesione all'Unione Europea. Lutto nella musica, è morto a Roma all'età di 87 anni Rizzo Ortolani, grande firma della musica da film. Nella sua lunga carriera ha lavorato con tutti i maggiori registi italiani, da Vittorio De Sica, Dino Risi, Damiano Damiani, Pupi Avati, e tra i temi diventati un cult è quello del sorpasso. Per chiudere il calcio, a proposito della trattativa annullata con la Juventus, in una nota il presidente dell'Inter Eric Toir scrive: nel corso della sua gloriosa storia l'Inter si è sempre distinta per integrità e lealtà, non permetto a nessuno al di fuori della nostra società, dice, di criticare pubblicamente le nostre dinamiche interne. Adesso c'è la viabilità, quindi ci prendiamo questa sosta per aggiornare chi viaggia. Sappiate che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, per i vostri commenti. Tra poco torneremo sulla legge elettorale, visto che vi appassiona così tanto. Poi c'è anche il numero per i messaggi, che è 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quindi prima di cominciare a parlare con il primo ospite e di presentarvelo, vi ricordo quali sono stati i fatti principali. Renzi dice: se fallisce la legge elettorale crolla la legislatura, la minoranza del PD boccia le liste bloccate, Letta dice il governo durerà. Per quanto riguarda la crisi, il ministro Saccomanni al Forum Economico Mondiale dice ci sono forti segnali di un ritorno della crescita e domani intanto in Consiglio dei Ministri ci sarà, si discuterà la privatizzazione parziale appunto delle Poste sul mercato, il 40%. Nuove accuse per Berlusconi, per i magistrati di Milano ha corrotto i testimoni del processo Ruby e c'è un lutto nel mondo della musica, è morto a Roma all'età di 87 anni Rizzo Ortolani, grande firma della musica da film. E dicevo, siccome diciamo contro, non dico ogni previsione, ma un po' di previsioni, ho trovato voi ascoltatrici e ascoltatori molto molto interessati alle vicende della legge elettorale, molti anche piuttosto ferrati, altri curiosi che fanno domande su come funzioni, su quest'ultima proposta, questa partorita dall'accordo Renzi-Berlusconi, come sia composta, costituita e articolata. Allora torniamo sull'argomento con un famosissimo politologo come Gianfranco Pasquino, che saluto, bentornato Pasquino. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora Pasquino, prima di passare un po' ai dettagli, intanto riassumo per le ascoltatrici e gli ascoltatori un pochino della legge elettorale, poi ci addentriamo. Abbiamo detto che bisogna raggiungere almeno il 35% con questa bozza di riforma elettorale per ottenere il premio di maggioranza, che sarebbe del 18% e si arriverebbe ad almeno il 53% dei seggi. In ogni lista, sono piccole liste bloccate, più corte di quelle del Porcellum, ci sono 3-6 candidati. Ci sarà una parità tra uomini e donne, 50% e 50%, stop alle candidature multiple, 3 soglie di sbarramento, 12% che dovranno raggiungere le coalizioni, almeno il 12%, il 5% per i partiti coalizzati e i partiti che corrono da soli dovranno raggiungere almeno l'8%. Professore, premio di maggioranza, partiti piccoli, preferenze eccetera, intanto un commento sintetico generale suo su questa bozza e poi magari parliamo di preferenze, di premio di maggioranza eccetera. Ma il commento sintetico è che è sostanzialmente il Porcellum un po' ridotto. Un Porcellinum? È quello che qualcuno ha chiamato Porcellinum, potrei anche rivendicare una paternità, ma non importa, perché non è che voglio essere padre di essere padri di Porcellini, insomma, non è così. Non è brillante, no. Perché le liste sono corte, sì, e poi vedremo quanto corte, perché io non credo che ci siano liste di 3 candidati soltanto. Dai 3 ai 6. Sono bloccate, così dicono dai 3 ai 6, ma io non ci credo, non si fido. Finale. E comunque sono bloccate, che significa che né lei né io né gli ascoltatori, che lei ha trovato anche ferrati, e questo mi rallegra, riusciremo a sceglierci il nostro parlamentare. In secondo luogo invece il premio di maggioranza, perché ridendo e scherzando quel premio di maggioranza non è un piccolo premio in seggi, ma se deve portare una coalizione che ha il 35 alla maggioranza assoluta, è un premio che oscilla intorno ai 100, 110, forse anche 120 seggi, che sono tantissimi. Tantissimi. E cioè l'unico elemento di novità è che ci sono queste soglie di sbarramento che impediscono ai piccoli partiti, che poi fra l'altro di oggi di piccoli partiti in Parlamento non ce ne sono già, che impediscono ai piccoli partiti di andare in Parlamento. Sembra fatto apposta per Renzi e per Berlusconi, cioè per i loro partiti, per obbligare i piccoli a collegarsi con loro. Non mi pare una grandissima pensata. E ieri infatti il professor Roberto Dalimonte, che non soltanto è politologo ma è proprio l'ispiratore ufficialmente, il tecnico diciamo di questa legge elettorale di Renzi, il consulente ufficiale di Renzi, diceva, quando io ho chiesto ma questa legge non rischia appunto di affossare i piccoli partiti, di renderli dei portatori d'acqua, cioè finché si mettono in coalizione per esempio con un grosso partito che sia Forza Italia o il PD, danno possibilità a questo partito di ricevere molti voti e di raggiungere almeno il 35%, poi però siccome se non superano l'8% perché corre da solo il 5%, ecco, i partiti coalizzati devono raggiungere almeno il 5%, restano a casa praticamente, hanno portato voti al partito maggiore. Ha detto che però nelle grandi democrazie governano i grandi partiti o perlomeno medi e quindi piccoli partiti. La vera scoperta, grande scoperta. Sì. No, nel senso spiegava in questo senso che in realtà i piccoli partiti devono coalizzarsi, aggregarsi. Devono diventare grandi. O aggregarsi. Non è quello il problema è che i grandi partiti, che poi non, grandi non sono perché nessuno dei due grandi attualmente raggiunge più del 25-26%, quindi sono piccoli, andranno alla caccia di, dei piccoli partiti e quindi faranno delle coalizioni eterogenee, delle grandi ammucchiate fondamentalmente per ottenere il premio di maggioranza. Questo è il punto e questo è malissimo. Questo non succede da nessuna parte nelle grandi democrazie, che forse Dalimonte prima o poi potrebbe anche studiare. Comunque, adesso Dalimonte non ce lo citavo proprio per spiegare dal suo punto di vista, visto che c'è buona mano sua in questa riforma elettorale. Ma adesso io vorrei chiederle, Pasquino, molti ascoltatori e ascoltatrici si sono trovati così delusi di fronte all'assenza delle preferenze, anche se da più parti viene detto che in realtà le preferenze in passato hanno rappresentato il rischio, anche la realtà concreta, insomma, di essere voti di scambio, di favorire i voti di scambio, le preferenze, e in più solleciterebbero, diciamo, più che dei duelli tra partiti avversi, all'interno degli stessi partiti, tra candidati di correnti diverse all'interno dello stesso partito, e quindi disgregherebbero un po' i partiti stessi. Quindi da molti le preferenze sono viste un po' come qualcosa essenzialmente di negativo, insomma, da archiviare. Sì, ma anche questa è una favola, perché quando c'erano le preferenze davvero, tre o quattro preferenze, i candidati si mettevano d'accordo fra loro e si scambiavano le preferenze, uno ne aveva 40.000, l'altro 20.000, l'altro 20.000 e così via, si mettevano insieme, bene o male tutti e quattro venivano famose cordate, poi entravano in Parlamento ma anche fuori e formavano quelle che si chiamavano le correnti. Poi ricordo a tutti che un referendum popolare del 1991, che è quello che ha iniziato la strada della riforma attraverso il referendum, ridusse le preferenze da 3 o 4 a una soltanto. Quindi collegi uninominali? Da esprimersi scrivendo il nome e cognome del candidato, di modo che non era possibile scrivere solo sul palmo, e quelle produssero che cosa? Che ciascun candidato non poteva solo cercarsi voti dentro il partito e quindi non correva contro i suoi colleghi di partito, ma andava a cercarsene anche fuori, e non c'è stato nessun tipo di corruzione. E ad ogni buon conto, c'è qualche cosa di meglio di un voto di preferenza: ci sono i collegi nominali, ma perché non li vogliono? Perché Renzi e Berlusconi vogliono nominare i loro parlamentari, mentre con i collegi nominali qualcuno potrebbe persino essere bravo e farsi eleggere per le sue capacità, per le sue competenze. Bisogna cambiare il discorso che stanno imponendoci, e sbagliato ed è manipolatorio. Quindi lei è per le preferenze? Renzi però no, ha detto... No, io non sono per le preferenze, io sono per i collegi uninominali. Quindi dove c'è un solo candidato e che vince, sfida l'altro candidato. E lì non c'è bisogno di soglie, perché poi si arrangiano fra di loro. Vedo anche Simone che scrive: collegi uninominali, doppio turno e premio di maggioranza. Sul doppio turno è d'accordo, nel caso non nessuno raggiungesse il 35%? Il doppio turno è importantissimo, perché consente agli elettori di vedere che cosa succede al primo turno e di comportarsi, avendo fatto i loro calcoli, e molti elettori italiani fanno i loro calcoli, di comportarsi in un certo modo al secondo turno. Però il premio di maggioranza non va bene. Cioè, come mai in tutto il mondo l'unico paese nel quale ci sono due paesi che hanno i premi di maggioranza? Uno è la Grecia, che non credo che vorremmo evitare, e l'altro l'Ungheria, che ugualmente non vorremmo evitare. Ma possibile che noi dobbiamo essere il terzo e dobbiamo paragonarci alla Grecia e all'Ungheria e non per esempio alla Francia o alla Germania? Che cosa fanno in Francia e Germania, Pasquino? In Francia hanno un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali a doppio turno e hanno dei governi che funzionano molto bene. In Germania hanno un sistema elettorale proporzionale che non ha un premio di maggioranza, ma una soglia di sbarramento, 5% punto e basta, non si discute alleanze, coalizioni, se ti metti insieme, se no, e così via. Chiarissimo, limpidissimo, che produce dei governi. Dice: ma fa anche le grandi coalizioni? Sì, ma quella è una scelta politica. La scelta politica della signora Merkel, che non ha la maggioranza assoluta, e dei socialdemocratici, che pensano di poter costruire delle politiche decenti insieme con i democristiani. Professore, ma alla fine questo Italicum è un proporzionale? È un proporzionale corretto? Un po' proporzionale, un po' anche maggioritario? Anche questo, posso scherzare con lei? Mi ha fatto una buona domanda, perché anche questo è importante. Cioè, Renzi si era esibito dicendo: sento odore e voglia di proporzionale. Questo è un sistema elettorale proporzionale. L'80% dei parlamentari verranno eletti in maniera proporzionale, meglio, verranno nominati in maniera proporzionale dai due dirigenti, dai due maggiori dirigenti, e poi c'è un premio di maggioranza, 18% al massimo, quindi 82% dei parlamentari eletti con un sistema elettorale proporzionale. Di nuovo, non è una buona scelta. Certo. Vediamo cosa scrivono le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, Corrado dice: sono 10 anni che si parla di una nuova legge elettorale, non è cambiata, non cambierà neanche questa volta ed andremo a votare col porcellum cassato dalla Corte. Mentre Domenico scrive: attendo nuovi spunti, l'Italicum mi sembra una stupidata, ho letto del sistema elettorale australiano addirittura che non conoscevo, dice: secondo me l'Italia, in Italia sarebbe perfetto. Lei conosce, professor Pasquino, il sistema australiano? Io conosco il sistema elettorale australiano e poiché scrivo anche di scienza politica, certo, il mio testo, il nuovo corso di scienza politica, ha anche l'esempio numerico. In quei casi naturalmente l'elettore vota in collegi uninominali il suo candidato, ma mette in lista tutti i candidati, di modo che se il suo non è il primo si ridistribuiscono le preferenze fino a che uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti e a quel punto viene eletto. Questo implica che i partiti suggeriscono ai loro elettori quali candidati degli altri partiti sono accettabili. È un sistema che funziona bene, certo noi non siamo australiani, bisognerebbe poi che i candidati facessero campagna elettorale e spiegassero che cosa devono fare gli elettori. Intanto ringrazio Beatrice per il messaggio, ma oggi è notizia di oggi che la minoranza del PD, quindi quella cuperliana, professor Pasquino, ha detto stop alle liste bloccate, alzare la soglia del premio di maggioranza, abbassare la soglia dell'8% per le forze non in coalizione e alternare la presenza di un uomo e una donna nella lista, perché è previsto il 50% donne e uomini, ma non dicono se le donne le mettono in fondo, gli uomini sopra, così naturalmente passano sempre gli uomini. Comunque, che ne pensa di queste correzioni che vorrebbe la minoranza PD? No, prima, da quello che ho letto, in verità c'è scritto che deve esserci l'alternanza fra le candidature, quindi sì, se lei prima l'ha letto? C'è scritto sulla legge che ho visto che circola su. Allora su la minoranza PD non l'ha vista perché non l'ha vista bene, era impegnata in altre battaglie. Io credo che bisogna semplificare drasticamente, cioè insisto, basta una soglia di sbarramento, i partiti che non ottengono il 5% non entrano in Parlamento, punto e basta. Per il resto no, perché se lei addirittura alza ancora la soglia alla quale si ottiene il premio di maggioranza, incentiva non le grandi ammucchiate come ho detto prima, ma le grandissime ammucchiate. Secondo me lì la clausola cruciale deve essere che il premio si ottiene non perché si supera una certa percentuale di voti, ma si ottiene al ballottaggio fra le due coalizioni più votate, e questo automaticamente, insisto, dà maggiore potere agli elettori. Aggiungo qua in coda, perché mi pare importantissimo, che i sistemi elettorali non debbono essere fatti per favorire alcuni partiti o per sfavorire altri, ma per dare potere agli elettori. Questo è l'unico criterio con il quale si valutano i sistemi elettorali, o si debbono valutare i sistemi elettorali. Professor Pasquino, per chiudere, Beppe Grillo ha detto, ha attaccato ancora la proposta di legge elettorale, l'Italicum, ha detto che è praticamente un mezzo per bloccarci, un colpettino di Stato. Tra l'altro ieri sa che ha lanciato il referendum tra gli iscritti che hanno scelto il sistema proporzionale, tra maggioritario e proporzionale. Ma Beppe Grillo sbaglia, perché questo sistema elettorale, l'Italicum, se mai passasse, gli consente comunque di entrare in Parlamento, perché con il 25% dei voti avrà grosso modo il 25% dei seggi, purché naturalmente mantenga la sua percentuale di voti. Dopodiché sbaglia anche a scegliere il proporzionale. Lui avrebbe un notevole interesse ad avere un sistema elettorale maggioritario, perché 25% su scala nazionale vuol dire che in qualche collegio nominale lui potrebbe davvero avere degli eletti, però di nuovo lui non li vuole quegli eletti lì, perché quelli che vengono eletti con le proprie forze poi gli disobbediscono in Parlamento, e quindi anche lui vuole avere un sistema nel quale nomina i parlamentari dicendo poi che hanno fatto le parlamentari, che erano ridicole, e poi li controlla. Grazie professor Gianfranco Pasquino. Grazie a voi. Buona continuazione. Adesso, prima di questa sosta, leggo ancora 2-3 messaggi vostri. Propongo di aspettare tutti fuori dai seggi se ci rifilano la porcata 2, dice un ascoltatore da Bergamo. Poi no al proporzionale, bipolarismo, preferenza unica e coerente, no disgiunta, dice un altro ascoltatore. Nei grandi paesi europei, scrive Ale, le preferenze non ci sono. Poi ancora Bruno, questo paese può cambiare se gli italiani spazzeranno via questa classe politica, mangiona con tutto il loro elettorato, in alternativa l'affonderemo. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre a vostra disposizione il numero per i messaggi, il 349-238-6666 e la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Vedo ancora sulla legge elettorale, per esempio Roberto scrive: primarie di collegio senza posti riservati come quello di Cuperlo e abbiamo risolto il problema delle liste bloccate. E poi, ma scusi, dica al professore che le liste possono essere scelte con le primarie, ma devo dire che chi contesta le liste bloccate contesta anche queste primarie dicendo che comunque i candidati messi lì da far votare alle primarie sono comunque scelti dai partiti. Insomma, difficile trovare un accordo, vedremo nei prossimi giorni. Poi D'Alema oggi diceva nel Parlamento si potranno fare cambiamenti, modifiche secondo la democrazia normale, ha sottolineato questo aggettivo. Vi ricordo, prima del prossimo ospite che è il governatore della Sicilia Rosario Crocetta, vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. Naturalmente sempre in primo piano la legge elettorale, con Renzi dice che se fallisce questa riforma crolla la legislatura. Minoranza PD boccia le liste bloccate e Letta però nel frattempo assicura che il governo durerà, che si fida di Renzi, che lavoreranno insieme. Per quanto riguarda la crisi, il ministro Saccomanni al Forum Economico Mondiale di Davos dice ci sono forti segnali di un ritorno della crescita. Intanto domani in Consiglio dei Ministri ci sarà la privatizzazione parziale delle Poste. Legge elettorale, Grillo contro tutti, ne abbiamo parlato prima, contesta l'Italicum. E poi le nuove accuse per Berlusconi: per i magistrati di Milano ha corrotto i testimoni del processo Ruby. E c'è anche questo nuovo lutto nella musica: a Roma è morto all'età di 87 anni Rizzo Ortolani, una grande firma della musica da film. E saluto dunque Rosario Crocetta, buonasera. Buonasera. Che ringrazio di essere qui con tutti i casotti che ci sono in questo momento, che gravano sulla Sicilia, sulle sue spalle, di governatore della regione Sicilia o presidente della regione. Io direi governatore, visto che è anche una grande isola, tra l'altro a statuto speciale, si può ben dire che chi la presiede la governa, insomma, deve governare, no Crocetta? Anche se a me piace molto presidente. Presidente, allora la chiamerò presidente. Presidente. Senta presidente, a parte la crisi politica che agita l'assemblea regionale siciliana, a parte indagini, cose varie, oggi è arrivata un'altra tegola, se così possiamo dire. Sono stati bocciati dal commissario di Stato, che è un vostro organo costituzionale, no? Che verifica se appunto tutte le leggi hanno la legittimità costituzionale, ha bocciato 3 articoli su 50 della legge finanziaria regionale. No, ne ha bocciato, in realtà ha bocciato non 33 su 50 commi di almeno 33 articoli. Di almeno 33 articoli, insomma, in materia. E poi ne dirò che quello che è accaduto è così che la gente possa giudicare. Allora, ha bocciato articoli su temi come sanità, forestali, famiglie, reddito minimo, fondi per i teatri, aiuti alle giovani coppie, fondi per pesca e artigianato e anche questa leggina che aveva voluto lei, che io trovavo anche piuttosto avanzata, quella degli aiuti alle coppie di fatto, con i contributi per i mutui casa anche appunto alle coppie gay. Invece il commissario di Stato dice questa roba non è affare regionale, non ve ne dovete occupare voi. Beh, a questo punto, prima osservazione, la legge, la regione Emilia-Romagna nel 2009, all'articolo 42 della legge finanziaria, ha fatto una legge di contenuto identico, che estende alle coppie di fatto gli stessi diritti che sono dati alle coppie tradizionali. Fra l'altro il commissario dello Stato, attribuendo questioni di copertura finanziaria che non esistono, perché quando si dice tutti i diritti e le contribuzioni che spettano alle famiglie e alle coppie di fatto, l'attribuzione finanziaria si fa un bando per le case, questo così come sono previste tutte le famiglie, tutte le famiglie che hanno un disagio hanno diritto alla casa popolare, però è chiaro che lo si fa nella misura della copertura finanziaria, quindi non c'entra dei fondi che ci sono a disposizione. In questo rientra il diritto civile, perché ci sono un uomo e una donna che non sono sposati, ma hanno 5 figli, hanno diritto più di una famiglia tradizionale che ha magari un figlio, e se hanno un reddito anche persino più basso. E quindi non si capisce, però guardi, ha tagliato anche cose che non costano nulla, come il diritto di un compagno, di una compagna in una coppia di fatto di assistere il coniuge malato in ospedale, perché questo io lo reputo non più problema di comportamento costituzionale di sorveglianza, ma lo reputo invece un pregiudizio ideologico e culturale pensando a una società italiana molto statica che non può assolutamente cambiare. E questo lo trovo persino discriminatorio e anticostituzionale, perché viola l'articolo 3 della Costituzione, laddove sancisce l'uguaglianza dei cittadini. E il principio, sempre contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli materiali che di fatto si oppongono all'uguaglianza formale dei soggetti. Quindi siamo a un lato alla tutela costituzionale della famiglia tradizionale, ma siamo alla violazione dei diritti fondamentali concessi ai singoli nell'articolo 3 della Costituzione, e il principio di uguaglianza, che è il principio più radicale e fondamentale della Costituzione. Quindi, è in violazione delle direttive europee. È in violazione del diritto della libera circolazione dei cittadini europei, perché siccome tutti i cittadini europei in qualunque Stato vanno, hanno gli stessi diritti, e ci sono Stati che hanno concesso anche, hanno realizzato i PACS, cioè l'accordo sulla possibilità delle coppie di fatto, la regolamentazione giuridica delle coppie di fatto, ma anche i matrimoni gay, che praticamente nel momento in cui si spostano nel territorio italiano non hanno diritto di assistere il proprio compagno o la propria compagna in un ospedale. Lei pensi, una coppia di fatto spagnola che viene con i propri figli, perché li possono adottare figli eccetera, si trova a Palermo e quei figli che sono regolari in Spagna non potranno entrare in ospedale a assistere la propria madre o il proprio padre adottivo. E questo è allucinante, è barbarico persino. Presidente Crocetta, quindi cosa intende fare a questo punto? No, ma poi ci sono anche altre violazioni, guardi, perché il nome dei forestali qui si giustifica tanto. Noi abbiamo tagliato 2 miliardi e 400 milioni l'anno scorso, quest'anno ne tagliamo altri 400 milioni, tagliamo 23 partecipate su 33, con tutti i problemi sociali che nascono, 9 consorzi di bonifica su 11, lasciandoli a 2, blocchiamo il precariato, cominciando a mettere norme. Tutto questo, cominciamo a mettere norme in riduzione della spesa per i forestali. Tutto questo negli anni passati è stato regolarmente permesso dai commissari dello Stato, perché se la Sicilia ha assunto 28.000 forestali, non si deve alla responsabilità della regione siciliana, del governo siciliano, ma anche di uno Stato che non ha controllato. Improvvisamente, quest'anno si tagliano i teatri, non c'è più una lira per i teatri, per l'università, per gli ESSO, si negano le borse di studio, si tagliano le borse di studio, si tagliano i fondi per i minori, il ricovero dei minori, zero. Vadano nelle strade, modello favelas brasiliana, o nelle fogne come in Ungheria o in Romania. Quindi, Crocetta, la stanno boicottando o non ci sono soldi? Per i malati psichici, andranno nei giardini pubblici o per i poveri. Questo è un massacro sociale. Non è l'atteggiamento di uno Stato che vuole fare una politica virtuosa. Quindi, Crocetta, la stanno boicottando o non ci sono soldi? Secondo lei da cosa dipende allora questo atteggiamento? No, guardi, le dice diverso rispetto a... E li abbiamo pure tagliati, abbiamo fatto misure. Qui è il governo che deve intervenire, perché il commissario dello Stato è nominato dal governo. Quindi io metto in discussione, forse la mia politica non piace? Sono stati tagliati anche i soldi per le associazioni antimafia, Borsellino, le associazioni anti-racket che combattono la mafia, zero. Ma cosa ha fatto questo Stato contro la mafia? Finalmente c'è un presidente che combatte la mafia, e questo presidente che sta risanando il bilancio e sta mandando in galera i fannulloni e i furfanti, viene boicottato e gli fanno pagare le responsabilità che i governi siciliani e lo Stato italiano hanno nei confronti della Sicilia. Qui è anche l'opinione pubblica nazionale che deve dire la parola. Presidente, ma perché il PD, anche il PD suo lì nell'assemblea regionale, ce l'ha con lei, nel senso si sta sottraendo, dice noi nella maggioranza ci leviamo dalla maggioranza. Come mai anche col PD non si riesce a creare sintonia? Guardi, questa storia è una storia vecchia con il nata con la mia elezione. Io ho ritenuto, proprio in netta discontinuità col passato, di nominare ma anche concordandolo con il Partito Democratico, con gli altri partiti alleati, con i movimenti alleati, una giunta che fosse di carattere, diciamo, tecnico-politico, che avesse figure sociali, avesse molte donne, avesse giovani. Ho messo una studentessa a gestire una formazione professionale dove si spendevano 500, 1 miliardo in 3 anni. O al turismo una giovane ragazza, pure, dove 90 milioni di euro erano destinati alla comunicazione, che non li spende ma manco il governo degli Stati Uniti. E abbiamo tagliato tutte queste cose. Questi hanno irritato anche un sistema che è anche persino trasversale e che cerca di fare pulizia. Faticosamente col Partito Democratico in questi mesi abbiamo cercato. Poi avvengono, c'è la battaglia congressuale, il governo viene chiamato, coinvolto in una vicenda, però parliamoci chiaro. Cioè, poi è scoppiata la vicenda all'ARS, diciamo, di Caffettopoli, come la potremmo chiamare, dei soldi sperperati, insomma, in regione. Senta, mi dica solo, Renzi l'ha sentito? Ovviamente ci siamo trovati a una serie di avvisi di garanzia che hanno riguardato 97 parlamentari delle vecchie, anche delle cose. Naturalmente io ho detto stiamo attenti al rimpasto, perché valutiamo, cioè io sono convinto che, come è giusto, come sarà, come persino tecnicamente, statisticamente provato, un'inchiesta di 97 è difficile che tutti siano, cioè uno che è coinvolto per 480 euro è difficile che uno, voglio dire, uno addirittura, c'è, cioè, uno che è stato viene accusato di aver distratto 6 euro, non credo un po' eccessivo. Che Presidente... uno che in una legislatura spende 6 euro in più sarà un errore, una svista. Cioè, Presidente Crocetta, Presidente, mi stanno facendo segno che devo chiudere, tanto ci sarà modo ogni volta che lei sarà disponibile di risentirci. Io intanto le auguro comunque buon lavoro. Grazie, Presidente Crocetta. Condannato, eccetera. Quindi noi coinvolgiamo in questo e quindi facciamo tutti uno sforzo. Va bene. Presidente, la devo salutare, mi perdoni perché c'è la viabilità, abbiamo tempi strettissimi. Grazie e buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso vi ricordo, prima di passare al prossimo appuntamento, quali sono le notizie principali di oggi. Letta dice la legge elettorale si faccia il prima possibile, intanto la minoranza PD dice no alle liste bloccate, scelgano i cittadini. Per quanto riguarda la crisi, il ministro Saccomanni al Forum Economico Mondiale dice ci sono forti segnali di un ritorno della crescita, e intanto domani in Consiglio dei Ministri ci sarà la privatizzazione parziale delle Poste, sul mercato il 40%. Ci sono nuove accuse per Berlusconi, per i magistrati di Milano ha corrotto i testimoni del processo Ruby. Abbiamo detto che c'è un lutto nel mondo della musica perché all'età di 87 anni è morto a Roma Rizzo Ortolani, una grande firma delle colonne sonore da film. Spazio adesso all'Europa. Il 25 maggio si vota per le europee, ve lo ricordo quasi ogni sera praticamente, e anche lo sport, pensate, può servire per vincere le sfide economiche dell'Unione Europea. L'Europa, che cerca di battere la crisi, guarda allo sport non solo come generatore di emozioni, ma anche come comparto produttivo. Europa 24 notte. Verso le europee. 294 miliardi di euro, quasi il 3% del valore aggiunto lordo dell'Unione Europea, e posti di lavoro per 7,3 milioni di persone impiegate nel settore. Per l'Europa lo sport non è solo un generatore di emozioni, ma anche un comparto produttivo vero e proprio. E proprio la Commissione Europea ha istituito un gruppo di alto livello con l'incarico di preparare un piano d'azione per ottimizzare quelle che possono essere le possibilità e le potenzialità potenzialità economiche della filiera produttiva legata all'attività sportiva nel continente. Ne parliamo oggi col vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani. Beh, vicepresidente, ci illustri quelle che sono le linee guida di questo progetto. Certamente noi dobbiamo puntare per uscire dalla crisi e quindi creare anche nuovi posti di lavoro sull'economia reale, e un settore importante dell'economia reale è anche l'industria dello sport. Cioè, lo sport non è soltanto l'inizio della competizione, la fine della competizione, è tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo, e molto di quello che c'è prima e di quello che c'è dopo è legato all'industria, a cominciare dagli impianti dove si svolgono gli avvenimenti, che sono realizzati dall'industria delle costruzioni, dalle tute, dalle magliette, dai calzoncini, dalle scarpe che indossano gli atleti, che sono realizzati dall'industria tessile o delle calzature, per passare poi a tutti gli altri strumenti di competizione. Pensiamo alle biciclette, alle moto, alle auto. Non c'è da nascondersi quanto per esempio lo sport sia collegato al turismo, e si può utilizzare ancora meglio questo legame per incrementare le presenze turistiche, per rinforzare il ruolo dell'industria dello sport. Qual è il piano d'azione che si è data all'Unione Europea partendo da questa analisi, da queste riflessioni? La mia direzione generale ha preparato un documento sul quale imbastire la discussione. Abbiamo nominato degli sherpa che rappresenteranno i partecipanti al gruppo di alto livello. Si riunirà il gruppo di alto livello altre due volte, e a settembre penso saremo pronti a pubblicare questo piano d'azione per coordinare tutte le iniziative destinate a rendere più efficace l'azione per la crescita che l'intero comparto dello sport e dell'industria sportiva possono dare. Ci faccia due o tre esempi pratici di quelli che potrebbero essere linee percorribili di sviluppo. Una delle più innovative è legata allo spazio. L'Europa sta per dar vita ai primi servizi frutto del sistema Galileo e GPS europeo, e questi servizi per esempio potrebbero essere utilizzati dal settore dell'industria tecnologicamente più avanzata, per esempio per misurare le prestazioni degli atleti. Questa mi piace sottolinearla perché vede in stretto collegamento la nostra politica spaziale con la nostra politica industriale, sotto l'ombrello di una strategia generale per la quale abbiamo deciso di investire 150 miliardi di euro da qui al 2020, e quindi vedere anche il comparto dello sport all'interno di una strategia di politica industriale per battere la crisi in Europa. Vicepresidente, grazie per essere stato oggi nostro ospite. Grazie a voi. Un saluto da Dario Ricci. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Fabrizio scrive: a ragione Pasquino a proposito della riforma della legge elettorale di cui parlavamo prima col politologo. Il collegio uninominale, dice, è l'unico che nella storia delle democrazie occidentali ha fatto decidere i cittadini, non ha mai prodotto fascismi, comunismi o partitocrazia come nel caso dell'Italia. Adesso dobbiamo proprio cambiare argomento. Un segno dei tempi incredibile, una frase che ha detto il Papa in vista della giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il prossimo 1 giugno, ha detto oggi: internet è un dono di Dio. Ve lo sareste mai aspettati, per dire veramente come cambiano i tempi e come anche un Papa, insomma, intelligente e brillante, si adegua ai tempi. Già Ratzinger aveva usato con una certa speditezza, diciamo, i social network. Dice: perché internet è dono di Dio? Perché può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Allora chiedo su questo un commento ad Antonio Spadaro, che saluto. Buonasera Spadaro. Buonasera, buonasera a voi. Direttore della rivista Civiltà Cattolica, che proprio tempo fa aveva scritto Cyberteologia, no? Se non sbaglio? Proprio lei? Esattamente, sì. Quindi la teologia, questo, internet, tecnologie, insomma, sì. si sposano? Bah, si sposano perfettamente, anche perché la Chiesa innanzitutto è chiamata ad essere lì dove sono gli uomini, e oggi gli uomini sono anche in rete. La rete non è uno strumento, certamente non è più uno strumento, ma è un ambiente di vita in cui le persone si scambiano i pensieri, idee, a volte sotto forma simbolica, anche di immagini. dove si esprimono i dubbi, le incertezze, i desideri, quindi è un luogo caldo, un luogo spirituale. E allora chiaramente la Chiesa è presente in rete perché è chiamata a essere presente dove sono gli uomini. E Papa Francesco in particolare ha una grande sensibilità per l'incontro. In fondo potremmo dire un Papa tattile, un Papa touch, un Papa che ha bisogno di un contatto fisico con le persone, che esprime ciò in cui crede, quindi il messaggio, il suo messaggio in una maniera che implica il contatto. Allora per lui la rete è tale, è significativa se non è fatta di figli ma di persone. E naturalmente non poteva rimanere insensibile Spadaro, Grillo, no, che per lui ne ha fatto una specie, lui di divinità invece di internet, dice il Papa, internet è dono di Dio, lui ha fatto una specie di divinità, di totem, insomma, dice il Papa benedice internet, ha detto oggi Grillo, questo conferma che Papa Francesco è una persona molto intelligente, ha capito che la rete è uno strumento anche per avvicinare le sue pecorelle. Ecco, non è uno strumento, appunto, quello che dicevo prima, cioè c'è una visione un po' distorta in questo senso, per cui internet sembra che sia qualcosa di diverso rispetto alla vita ordinaria, quindi un luogo separato e a parte. In realtà il pensiero della Chiesa, così come si è espresso in questi ultimi anni, ovviamente dopo i grandi cambiamenti nel mondo della comunicazione, appunto il pensiero della Chiesa vede la rete non come un ambiente parallelo, come un luogo diverso, un continente in qualche modo da conquistare, ma è il tessuto connettivo delle nostre esperienze, quindi direi non è uno strumento per collegarsi con le persone, è un ambiente in cui si vive, si dialoga con le persone. Insomma, la Chiesa rimane giustamente al passo. Grazie Antonio Spadaro. Grazie. Grazie a voi e buona serata. Noi adesso ci dobbiamo brevemente lasciare e ci ritroviamo tra poco.